Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon 2012 da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi puntata speciale, tutta dedicata alle voci, alle storie che raccontano e descrivono le nuove tendenze nel panorama dei consumi. Voci che ci svelano cosa salvare dell'anno che è appena concluso, cosa ritroveremo anche nel nuovo anno dal punto di vista della comunicazione, della pubblicità, dei nuovi stili di vita, dei modelli di consumo e delle nuove abitudini di acquisto. Iniziamo da una delle parole chiave del 2011, l'anno della grande crisi e delle difficoltà che stiamo purtroppo ancora attraversando. Solidarietà, perché un atto d'acquisto è anche una scelta di responsabilità sociale. Per rappresentarla abbiamo scelto un'iniziativa che si è tenuta il 10 dicembre scorso, la giornata del caffè sospeso. Se avete origini napoletane sapete sicuramente che cos'è un caffè sospeso. Per tutti gli altri partiamo dalla spiegazione di un napoletano doc, Luciano De Crescenzo. L'abbiamo rintracciata su YouTube. Una volta a Napoli, quando una persona era felice e si prendeva un caffè, invece di un caffè ne prendeva due, cioè ne pagava due. Ne pagava due. Il secondo andava al cliente che veniva subito dopo, per cui di tanto in tanto qualcuno si affacciava al bar e diceva: c'è un sospeso? Questo era il caffè sospeso. Come dire, un caffè offerto all'umanità. Un caffè offerto all'umanità, è proprio questo lo spirito del caffè sospeso, lo spirito con cui, in coincidenza con la giornata internazionale dei diritti umani, la rete del caffè sospeso ha invitato bar e locali d'Italia a recuperare l'antica usanza solidale. Ora più che mai ce n'è bisogno, ci ha detto Maurizio Del Bufalo, ideatore dell'iniziativa, coordinatore di uno dei 7 festival culturali che fanno parte della rete costituita dai comuni solidali, il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Sicuramente ora più che mai c'è bisogno di caffè sospeso, perché caffè sospeso vuol dire un gesto semplice di umanità e di solidarietà che però nasconde un'antica cultura dell'ospitalità. Noi abbiamo pensato che, facendo riferimento alle nostre radici, alle nostre antiche tradizioni, avremmo potuto dare a tutti un segno di umanità per cercare di richiamare l'attenzione della gente semplice, della gente di strada, su quello che una volta era il senso dell'altro che avevamo e che abbiamo un po' perduto. Ecco. È bello pensare che tutto possa iniziare da una tazza di caffè offerta ad una persona che non conosci. Si parte dalle piccole cose. Può sembrare strano che 7 festival che si occupano di letteratura, di teatro, di pittura, di paesaggio, di diritti umani, poi alla fine trovano un accordo su una tazzolina di caffè, che è una cosa piccola e tutto sommato sembra insignificante, e invece può nascondere un gesto importante, perché dobbiamo riprendere dentro di noi, prima che nella nostra cultura, l'abitudine a pensare agli altri. Quindi credo che questo sia il modo buono per iniziare. Colazione a Roma, cena a Berlino. Negli ultimi mesi abbiamo viaggiato nell'Europa della crisi alla ricerca del consumatore più fortunato. Un viaggio, ai noi, dalla conclusione amara per l'Italia, dove, ve lo anticipo, le spese si mangiano l'80% del reddito giornaliero. Ora, signori, io ho depositato alla banca Bering la somma di 20.000 sterline e sono pronto a rischiarle parte o tutte su questa scommessa. Cioè che io posso fare il giro del mondo in 80 giorni. Qualcun altro oltre a Stewart vuole partecipare? Ci stiamo tutti. Sì. Molto bene. Se ricordo esattamente, il treno per Dover parte dalla stazione di London Bridge alle 9:15. Prenderò quello. Pronti a partire dunque, il viaggio che ci accingiamo a fare non sarà un giro del mondo ma un giro d'Europa. Impiegheremo però un solo giorno, la giornata tipo di un consumatore tra risparmio sognato e costi reali. Caffè e brioche al bar a Roma, al lavoro, in tram o in auto, ma con un'assicurazione stipulata a Parigi e il pieno di benzina fatto a Madrid. Ritorno nella capitale spagnola per cena, pranzo invece a Berlino, il tutto telefonando agli amici con tariffe italiane, ma con uno stipendio tedesco o britannico in tasca, non certo il nostro. Ecco la giornata ideale per chi vuole risparmiare, uno slalom tra il caro vita che si ricava dall'indagine ad hoc sul costo di una giornata tipo in Europa. Il consumatore italiano ne esce malconcio. Il costo della vita nel nostro paese è superiore del 2% alla media europea, ma i redditi medi sono più bassi del 35%. Solo per la sopravvivenza quotidiana in Italia se ne va l'80% del reddito giornaliero, contro il 40% della Germania e il 56% della Spagna. Senza contare che un impiegato di medio livello in Italia guadagna 1.410 euro, in Germania 2.580, 10 in meno in Inghilterra, 2.180 in Francia e 1.850 in Spagna. Tradotto in cifre, tutto ciò significa che a fine giornata il consumatore italiano si ritrova in tasca solo 8 euro e mezzo dei 47 che aveva all'alba. Quello spagnolo, che invece poteva contare su 61 euro, se ne ritrova 26, il francese 31, l'inglese 39 e il tedesco addirittura 51. Noi italiani abbiamo una doppia penalizzazione, ci dice Carlo Pileri, presidente di ADOC, l'associazione di consumatori che ha realizzato l'indagine. Guadagniamo di meno e paghiamo di più le stesse cose. Per fare gli acquisti dalla colazione alla cena, passando dalle utenze domestiche ai trasporti, se ne va praticamente quasi l'intero reddito. L'80% se non ci concediamo un cinema, perché se ci concediamo un cinema spendiamo addirittura il 90% di quello che abbiamo, e noi nei nostri conti non abbiamo calcolato la spesa della casa in sé, cioè dell'affitto o del mutuo. Qualora in questo reddito debba essere conteggiato anche il costo della casa, la disponibilità è ancora minore e bisognerà rinunciare a parecchie delle cose che facciamo, forse alla macchina privata utilizzando solo i mezzi pubblici o alla colazione al bar addirittura. Quali sono le voci che incidono di più? Incidono molto sicuramente le utenze domestiche, i trasporti. Il trasporto privato, tra l'altro, in Italia risulta essere il più costoso, perché sia la benzina che l'RC auto costa quasi il doppio rispetto agli altri paesi europei, e chiaramente questo penalizza molto. E poi la spesa alimentare è una delle voci che porta via molta parte del reddito, ed è una di quelle spese alle quali non si può rinunciare, quindi questo è anche l'altro elemento importante, cioè trasporti, energia, casa e alimentare, cioè quelle spese che non si possono rinunciare sono quelle che incidono di più e quindi lasciano poco spazio ad altri tipi di acquisti, alla cultura, al divertimento. Che cosa ha portato a questa situazione e cosa fare ora? Sicuramente è inciso molto il passaggio dalla lira all'euro, per colpa di chi ha voluto speculare in quell'anno tra il 2001 e il 2002, paragonando un euro a 1.000 lire. Questo poi ce lo siamo trascinato appresso nel corso di questi 10 anni, e poi purtroppo anche la crisi internazionale e la crisi dell'industria italiana, che ha penalizzato il nostro paese rispetto ad altri paesi europei, e questo è la conseguenza, diciamo, di questi due fenomeni congiunti. Innanzitutto bisognerebbe lavorare tutti assieme, però ci vorrebbe anche un impegno forte di moral suasion da parte del governo, che finora è mancato, perché si vada verso un controllo ed una diminuzione dei prezzi di quei prodotti che sono necessari alla vita quotidiana. Se non si farà questo, non si libereranno risorse né per i risparmi e quindi per gli investimenti nei confronti dell'industria, perché con risparmio si possono acquistare le azioni e quindi si può dare linfa economica alle imprese, e non si possono neanche far decollare quei consumi di quei prodotti che non sono necessari, dall'abbigliamento all'automobile agli elettrodomestici, che oggi sono quelli più penalizzati. Con questa premessa è inutile spiegare perché la caccia all'affare sia diventata una delle tendenze più forti nei consumi in questo periodo. Un prodotto su tre nel 2011 nei supermercati è stato venduto in promozione, ed è boom per i siti cosiddetti di social shopping, i gruppi di acquisto online, Groupon, Groupalia, Let's Bonus e simili siti che offrono prodotti e servizi scontati. Sono il vero e proprio fenomeno del momento, che ha spinto l'e-commerce quest'anno ad una crescita del 20%. Le persone che comprano prodotti online nel nostro paese sono circa 9 milioni, quasi uno ogni tre utenti internet. E la metà degli italiani che si rivolge a internet lo fa proprio per trovare l'offerta migliore. Ma attenzione, non è tutto oro quello che luccica, ci dice Massimiliano Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori. I consumatori italiani stanno scoprendo la rete, i benefici degli acquisti online, dopo un'iniziale diffidenza

butta giù l'amo. A spigoletta avrà a bocca e zacche. Allora quello tira su, pia a spigoletta, a porta al mercato, a schiaffa sul banco e poi dice, beh, mo quasi quasi ma la vendo a 20.000 lire al chilo. Ma chi ha detto? Chi l'ha detto? Allora, siccome a te quel pescetto ti fa bene e io non ho le 20.000 lire per comprarlo, che devo fa? Me lo pio? Come lui se l'è preso dal mare, io me lo pio dal banco. E questo non è roba, capito? Logica ferrea, non c'è che dire, quella di Manolesta, di nuovo in studio con Essere e Avere. In questa puntata speciale tutta dedicata alle voci dal panorama dei consumi stiamo raccontando un 2011 fatto, ai noi, di crisi, budget ridotti e strategie di risparmio. Per raccontare questa crisi c'è anche un nuovo indicatore, quello dei furti nei negozi, grandi magazzini e supermercati, che mai sono stati così tanti, soprattutto in Italia. Nel nostro paese il valore dei prodotti rubati ha raggiunto i 3 miliardi e mezzo di euro, cifra che rappresenta l'1,3% del fatturato. Numeri dall'edizione 2011 del Barometro Mondiale dei Furti nel Retail, la consueta indagine firmata Checkpoint Systems. Quest'anno il risultato di taccheggi, frodi, furti ed errori ha subito un aumento del 6,6%, il più alto mai registrato dal 2007, e per l'Italia il dato sale addirittura al 7%. Pierpaolo Lambrini. In parte è sicuramente un ritardo della ripresa economica, ma se andiamo poi ad analizzare con attenzione quello che sono i dati, vediamo che comunque un importante incremento è dovuto molto spesso anche ai professionisti del taccheggio, non a, diciamo, al cliente abituale. Ma a pagare alla fine sono i consumatori, che si accollano una specie di tassa invisibile sullo scontrino annuo della spesa, perché i negozianti scaricano il danno sui prezzi di vendita. Il valore calcolato per famiglia è di circa 175 euro, 12 euro in più rispetto a quello che era il 2010. Ricade sicuramente perché comunque in parte viene pagato direttamente, ma in parte non è possibile per le aziende investire in forme promozionali o in altre attività che vanno a avvantaggiare il consumatore. Per quanto riguarda invece la classifica dei prodotti più rubati, ci sono conferme o smentite rispetto, insomma, al quadro che abbiamo trovato negli anni scorsi? Beh, nei primi posti ci sono sicuramente conferme. Diciamo che quest'anno gli accessori firmati sono al primo posto, quindi una tendenza al prodotto per la rivendita. I prodotti e tech sono sempre tra i primi posti e al secondo posto quest'anno, quindi MP3, console, giochi e quant'altro fa parte di quella categoria. Ancora i profumi, gli articoli per la cosmesi, e quest'anno sono al terzo posto, anche l'anno scorso erano tra i primi. Sempre l'abbigliamento al quarto posto, e troviamo poi via via gioielli, food fresco, che rimane sempre un prodotto altamente taccheggiato, quindi i formaggi, la carne e i prodotti per l'ufficio, quindi le cartucce e gli articoli fai da te, agli ultimi posti di questa prima top 10 della classifica. Ma in tempi di crisi conviene essere buoni o cattivi? Io sono la mamma, faccio l'insegnante. Se ho un desiderio, certo, vorrei vivere in una casa moderna. Dopo l'ingresso, la camera da letto. Luminosa tutto il giorno. Luca, piove. Sai cosa potremmo fare in questa cameretta? Buttare giù il muro e fare un'enorme cabina armadio. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. Figliolo, c'è una cosa che devo dirti. Non sono tuo padre, sono tua madre. E cattivi, da sempre le due anime in pubblicità convivono, difficile dire che cosa funzioni di più. Ne abbiamo avuto un'idea con la Notte dei Publivori, dedicata quest'anno proprio a questo tema. Dalla pubblicità buonista ai grandi spot dove a vincere sono i cattivi. 40 anni di spot da ricordare o da dimenticare per sempre.